essere. Buonasera. Buonasera Gianmarie. E allora? L'ora sta passando. Sta correndo l'ora. E via. E voi tutti bene? Insomma, deve mandanarsi piano piano. Giorno per giorno tiriamo avanti. Diversamente non si può fare, per cui bisogna andare avanti. Piano piano è andato sempre solo. Via via. Purtroppo sì. È così infatti. Via. E la televisione attorno. Poi, oh mio, l'ho acceso così, ho acceso a vedere qua se c'è. Se c'è qualcuno su 10. Perché sono 23, non c'è più nessuno. Allora sono passato qua e già c'è di tu. Non ci stanno andando più su 23, no. Cosa andiamo a fare? No, per silenzio in chi vi bu. Ah, ma che non ogni tanto già c'è qualcuno. O Gianni o qualche altro. Li trovi. Se non c'è nessuno io ripeto qualche volta faccio così, do un colpo importante, ma non c'è nessuno, allora tengo tutto, capito? Adesso mi stavo gira al terzo, accendo su 10 a vedere se c'è qualcuno e c'è risultato e va detto. Non ce ne si voglia di chiacchierare, ma non mi viene voglia almeno accendere a certe volte, capito? E per cui non è facile, capito? Però può darsi col tempo, piano piano, riesco a andare avanti bene, vai. Sì, infatti, piano piano, senza nessun cosa, nessun impegno. Quando viene a gana, pazienti, quando non viene a gana, no. O se va di nuda. Infatti. Va bene, ciò dai. Che sta avendo mia figlia. Loro vengono a quest'ora stessa. E per cui non posso nemmeno trattenere. Se no mi sarei trattenuto a quel po'. Ma stanno venendo loro. Sentiamo tu, saluto in casa, dai. Ci sentiamo qualche altra sera, ok? Ok, Gianmaria, a risentirci alle prossime. Ciao Gianmaria. Cosa va bene, Monica Nari? Sì.